rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Eccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Cambiamo appunto un pochino prospettiva dai quotidiani italiani, ci spostiamo in generale sulla stampa, ma anche italiana a volte, ma comunque della stampa che si occupa di questioni prettamente europee. Naturalmente potremmo parlare anche soltanto di Grecia, perché sapete che la trattativa sul debito greco coinvolge soprattutto le istituzioni europee. Prima c'era la famosa Troica, Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Commissione Europea, adesso sostanzialmente è veramente una trattativa tra la Grecia e le istituzioni europee. E allora vi segnalo da Internazionale che... Breaking news. 7:47, 13 secondi, interrompiamo le trasmissioni per darvi nuovi aggiornamenti con la notizia che vi abbiamo dato durante il giornale radio del 7. Questa fortissima esplosione avvertita nel centro del Cairo ha colpito certamente il consolato italiano su El Gala Street nel cuore della città. Ormai tutti attribuiscono la causa ad un'autobomba, infatti le prime fotografie che giungono si vede appunto una auto completamente distrutta e pezzi consistenti del palazzo sede del nostro consolato semi distrutti. Dunque l'esplosione, mentre il palazzo era ancora chiuso e le indagini sono ancora in corso, i medici parlano di 5 feriti, 2 poliziotti, 3 passanti, naturalmente nuovi particolari durante il giornale delle 8. Eccoci ritornati qui con la rassegna stampa europea, anche se naturalmente sentire queste notizie lascia un po', insomma, è difficile, no? Far finta di niente. Comunque aspettiamo naturalmente aggiornamenti su questo probabile attentato. E dicevamo, la grande questione europea è naturalmente la trattativa tra Grecia e Banca Centrale Europea e Commissione Europea sul debito. Vi segnalo allora su Internazionale che in realtà dedica il numero di questa settimana in edicola da ieri al nuovo, a come l'industria alimentare sta cambiando, e sottolineando che a volte le polemiche contro l'industria alimentare, sono anche quella europea naturalmente, sono un po' inutili, perché di fatto l'evoluzione dell'industria alimentare e anche l'introduzione degli OGM ha permesso di debellare parte della fame nel mondo. Però è vero, secondo le inchieste tradotte da Internazionale, che ci devono essere dei cambiamenti, ma quindi la copertina è dedicata a questo, però all'interno sono tantissimi gli articoli tradotti sulla questione greca. Per esempio un editoriale del quotidiano Efimerida Ton Syntakton greco, che si intitola Un'occasione storica per l'Europa. Vi leggo le prime righe. Con il referendum del 5 giugno il popolo greco ha inviato un chiaro messaggio a diversi destinatari, sia in patria sia all'estero. I partner europei devono capire il senso della storica decisione dei greci e smettere di trattare il governo di Atene come un paria. Non stanno amministrando un protettorato. Se i leader europei hanno a cuore il futuro dell'Unione, devono a tutti i costi capire che i greci non hanno detto no né all'Europa né all'euro. Al contrario, i greci hanno perso la pazienza e non possono tollerare questa Europa segnata da un eccesso di austerità e da un deficit di democrazia. Non possono tollerare che la solidarietà sia stata sostituita da memorandum ricattatori che rendono i poveri più poveri e i ricchi più ricchi. E forse proprio qui, in questa frase, rendere i poveri più poveri e i ricchi più ricchi, sta il senso veramente di... speriamo dell'accordo che verrà. Cioè, è vero che sono state proposte nuove misure di austerità come le tasse, però si spera che finalmente le tasse colpiscano anche i greci. Sapete che per esempio i ricchissimi armatori greci erano di fatto esentasse. Molti anche gli altri articoli sulla Grecia che trovate su Internazionale, per esempio il fallimento dell'austerità tratto dal Guardian. Perché di questa questione davvero si sono occupati, si sono esercitati gli editorialisti di tutta l'Europa, e allora in questo caso il senso è: il no greco è un messaggio per i vertici dell'Eurozona, bisogna gestire diversamente la crisi e dare più spazio ai processi democratici. La grande questione di cui parla il Guardian e che spesso viene sollevata è che, per esempio, sapete, esiste sì un governo dell'Unione Europea che in teoria è la Commissione Europea, però vedete bene che poi sono i governi, i premier dei singoli stati e di quelli più forti, Angela Merkel soprattutto, a trattare. E poi c'è l'altra questione, che abbiamo sì un Parlamento democraticamente eletto ogni 5 anni, ma è un Parlamento che non legifera, o meglio, le leggi fatte dal Parlamento europeo non sono vincolanti, sono invece le decisioni soprattutto le direttive emanate dalla Commissione europea, che appunto sono vincolanti. Da qui quello che viene ormai definito da tutti un deficit di democrazia e la necessità di riformare le istituzioni dell'Unione europea e rivedere i trattati che le hanno istituite, per l'appunto. Un'altra questione è naturalmente quella di approfondire il valore delle misure di austerity. E allora, per esempio, Yannis Siotos, di un magazine greco, i Avci, sempre tradotto da Internazionale, riscoprire Keynes. Sapete, John Maynard Keynes, un economista famoso soprattutto per aver sempre sottolineato il valore della spesa pubblica, e le sue misure sono state spesso adottate, in particolare negli Stati Uniti. Uno su tutti che lo ha seguito è stato Franklin Delano Roosevelt, con il suo grandissimo investimento finanziato con soldi pubblici, che ha fatto un po' riprendere l'economia americana nel secondo dopoguerra. Vi segnalo anche un articolo su Srebrenica pubblicato da The Observer, perché parliamo proprio oggi, perché era proprio l'11 luglio del 1995 quando la città bosniaca, in teoria sotto la protezione dell'ONU, come dicevamo all'inizio, fu conquistata dai soldati del generale serbo Ratko Mladic, che massacrarono più di 8.000 prigionieri. E 20 anni dopo nuovi documenti rivelano come le grandi potenze decisero di sacrificare Srebrenica per arrivare a un accordo di pace. Sacrificare Srebrenica, appunto, è quasi 10.000 persone. Un aggiornamento anche sull'Ungheria, che sapete ha confermato di innalzare quel muro anti-immigrati che tanto ha fatto discutere, e ci spiega quindi la Süddeutsche Zeitung. Il 7 luglio il Parlamento di Budapest ha approvato la legge che prevede la costruzione di una recinzione al confine con la Serbia per impedire l'ingresso dei migranti. La norma, votata dal partito di maggioranza Fidesz e dagli estremisti di destra di Jobbik, prevede anche procedure accelerate per l'espulsione degli immigrati irregolari. Possiamo accusare Budapest di farsi le regole da sola e definire il suo comportamento ricattatorio e populista. Tutto vero, scrive il quotidiano tedesco, ma per quanto possa sembrare cinico, l'Ungheria fa come gli altri paesi europei. Finché gli stati dell'Unione si concentrano esclusivamente sui loro interessi in materia di rifugiati, il premier Viktor Orban può benissimo dire che il suo paese sta facendo la stessa cosa, solo in modo più radicale. E dalla stampa europea vi segnalo dall'Agence France Express, quindi l'agenzia francese, la principale agenzia di stampa francese, la decisione della Danimarca, che segue quella di altri paesi, soprattutto la Gran Bretagna, che ha consigliato a tutti i suoi cittadini di non andare in Tunisia e, che ci fosse, di tornare dopo naturalmente il massacro del 26 giugno sulla spiaggia di Sousse, dove hanno perso la vita più di 40 persone, la maggior parte delle quali erano appunto cittadini britannici. Quindi questa è la decisione del governo danese, che metterà in ulteriore difficoltà il turismo tunisino, che è la principale voce di guadagno del paese. Era l'ultima segnalazione che riesco a darvi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.